cuidado el que sea que te andan buscando. Chi anima la città in questo momento sono gli Anti-G, che pian piano in situazioni molto diverse le une dalle altre si stanno muovendo e stanno dando il via a questa giornata di assedio alla zona rossa. Io vi chiamo da Piazza Paolo da Novi, come ricordiamo era previsto il concentramento di COBAS e del Network per i diritti globali, ma sono arrivati anche altri manifestanti a volto coperto, vestiti con prevalentemente di colore nero, hanno in mano delle mazze, hanno dei sacchetti con dentro i sassi, stanno spostando dei contenitori dell'immondizia, formando delle trincee sostanzialmente, ora stanno ripiegando dalla parte opposta rispetto alla polizia verso Corso Torino. Saranno 2-3 mila persone quelle che c'erano nella piazza. Entro alla zona rossa, Francesco Giorgini. Francesco, ci senti? Io sono in via Cesarea, che è una delle trasversali di via 20 Settembre. C'è stato un tentativo di sfondamento, chiamiamolo così, anche se in realtà le reti non si sono mosse di un centimetro, da parte di alcuni, forse 300-400, con le bandiere dei socialist worker e con le bandiere rosse e nere degli anarchici. La polizia ha risposto con cannoni ad acqua, 2 idranti, dopodiché c'è stata una carica esterna della polizia che è arrivata sul lato destro e ha respinto i manifestanti. Non sembra che ci siano scontri particolarmente duri, e anche i manifestanti che avevano cominciato a lanciare un po' di roba non hanno lanciato San Pietrini, hanno lanciato solo bottiglie d'acqua e mele e qualche limone. La polizia sta avanzando verso Piazza Girone Savonarola, quindi hanno aperto le gabbie che ritenevano, stanno marciando compatti, casi blu che vediamo, sono alcune centinaia, e avanzano in formazione lungo tutta la via. È rimasto soltanto a fronteggiarli una mucca di cartapesta del movimento di Beauvais. Sono le 14:05, siamo in attesa di collegarci con tutti i nostri inviati a Genova per quest'oggi. Antonella Mascali, sei in linea? Diversi manifestanti hanno lanciato tante teste d'aglio al di là della grata, quindi contro i poliziotti. Molti sanno che Silvio Berlusconi odia l'aglio. Tutti i manifestanti adesso man mano a ondate, a momenti si avvicinano contro le grate. Io devo mettere il bavaglio perché arrivano i lacrimogeni che sono stati sparati poco fa. A un certo punto 4-5 persone si sono precipitate contro dei giornalisti, hanno cercato anche di strappare la macchina fotografica a un fotografo, e dopo da lì è cominciata la reazione anche della polizia, che spruzza anche con una specie di bomboletta, cercando di spruzzare negli occhi ad alcuni dimostranti. Il corteo si è praticamente diviso sulle due vie che partono a destra e a sinistra rispetto a Corso Buenos Aires. La polizia, ricordiamo, è avanzata fin dalla soglia dove era arrivata questa mattina con i blindo e le reti, che era sostanzialmente per chiudere Piazza Brignole, che è rimasta assolutamente deserta come un prolungamento della zona rossa, e adesso si è portata fino su Corso Torino, dove ha preso possesso del... Ci sono altri scontri, mi dicono, corriamo in avanti. La polizia in questo momento da quella parte di Corso Buenos Aires si è aperta su due ali, mentre un'altra manifestazione sta sfilando con elmetti e caschetti in una via parallela. Qui siamo praticamente nella terra di mezzo, perché da una parte abbiamo la polizia, dall'altra invece un corteo che sta sfilando invece in direzione mare. Angelo, rimani in linea, noi passiamo un attimo la linea a Piero Bosio. Sì, vi parlo da Corso Buenos Aires, circa 200-300 metri da via 20 Settembre. In questo momento la polizia, dopo alcune cariche, si è riposizionata per bloccare la via. In più c'è una sorta di caccia all'uomo con un paio di poliziotti che usano lo spray per colpire in faccia giornalisti e manifestanti.